Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis, continuiamo a parlare di Hyperloop. Come abbiamo visto ieri sera, si tratta di un sistema di trasporto ad altissima velocità, oltre 1200 km orari, basato su delle navette che viaggiano levitando all'interno di un tubo in cui viene fatto quasi il vuoto. Il concept di Hyperloop è stato sviluppato originalmente dal miliardario americano Elon Musk, il quale ha dichiarato open source il progetto, che ora viene portato avanti da alcune startup, tra cui la più avanzata Hyperloop Transportation Technology, fondata in California dall'italiano Gabriele Gresta insieme a un socio tedesco. Parliamo di realizzare da zero un'infrastruttura nuova di zecca, un'impresa immane soprattutto per una startup, e abbiamo chiesto quindi a Gresta quale percorso hanno in mente. Appena abbiamo iniziato, abbiamo immediatamente siamo partiti dal documento iniziale e abbiamo iniziato a ragionare sulle migliori, il miglior modo di attuarlo. Dopo un anno e mezzo siamo arrivati a uno studio di fattibilità e abbiamo ricevuto solamente l'interesse di tante proprietari terrieri in giro per il mondo, e abbiamo scelto di costruire il primo prototipo a nord di Los Angeles. D'accordo. Sono una città che nascerà completamente sostenibile, e all'interno di questa città, che si chiama, scusa, Quay Valley, il tracciato sarà di 8 km lungo la 5, quindi sì. Immaginatevi di arrivare lungo questa autostrada e di vedere l'Hyperloop che parte con una stazione dall'inizio della città e poi all'ultimo tratto passa in mezzo all'autostrada, quindi sarà un punto anche di attrazione turistica, perché in quel punto faremo il tubo trasparente. Okay. Quindi le capsule si potranno vedere frecciare. Iniziamo a costruire nel 2016 e prevediamo di finire nel 2018. E questo sarà un primo tracciato, un po' di prova, 8 chilometri dicevamo, e a questo punto lo step successivo quale potrebbe essere? Beh, allora, intanto è una prova vera, perché il tracciato sarà full scale, sarà fatto esattamente in dimensioni reali. L'unica differenza è che non potremo accelerare a 760 miglia, quindi a 1200 chilometri, ma comunque batteremo il record a terra dell'alta velocità. Insomma. Ok, questo è l'obiettivo. Successivamente poi abbiamo ricevuto vari interessi da parte di stati. Diciamo che sono quegli stati che non hanno infrastrutture e che quindi hanno una facilità sia decisionale, perché c'è una persona che decide, sia dal punto di vista pratico implementativo, perché non hanno... Immaginate per esempio gli Emirati Arabi. Ecco, stavo per dire, mi sa tanto che finiamo da quelle parti, perché ci sono i soldi, c'è tanto deserto e nessuno si lamenta quando gli si mette un tubo in mezzo, e c'è uno solo che decide sostanzialmente. E c'è un motivo strutturale, lì non possono costruire le alte velocità per via della sabbia, che è un nemico. È un grave problema, oddio, ci stanno provando, e comunque le infrastrutture ferroviarie da quelle parti hanno questo problema in più. Vediamo il modo in cui avete cominciato a raccogliere le forze. C'è una community che è nata intorno a questo progetto, come funziona? Sì, allora, questa è la parte straordinaria del progetto che stiamo portando avanti, di cui siamo più fieri. Noi abbiamo, dopo che Elon Musk ha pubblicato il documento, il white paper, abbiamo pubblicato sul nostro sito di crowdsourcing il documento integrale. Abbiamo detto: chiunque vuole partecipare al progetto faccia l'applicazione e noi daremo in cambio stock. La cosa straordinaria è che in due mesi hanno aderito 200 ingegneri da tutto il mondo. I quali dedicano... Possono lavorare dalla loro società, cioè non devono lasciare il lavoro che fanno, ma devono darci almeno 10 ore alla settimana. La cosa straordinaria è che hanno aderito ingegneri dalla NASA, Cisco, JPL, da Boeing, Harvard, MIT. In questo momento, dopo un anno e mezzo di lavoro, abbiamo 400 ingegneri. Noi diciamo che siamo la startup più grande del mondo, perché non abbiamo un ufficio fisico. Siamo due soci, io e Dirk Albon, più un paio di soci iniziali, e poi tutto il resto sono tutti soci aggiunti in cambio di lavoro. E questo è straordinario, perché abbiamo dimostrato che si può lavorare e costruire un nuovo tipo di azienda senza bisogno di soldi. Noi ad oggi non abbiamo raccolto nessun capitale finora, ma nel 2016 stiamo lanciando un IPO, cioè una quotazione a Nasdaq, che permetterà ai nostri, diciamo, co-founder, fondatori e collaboratori di fondamentalmente dare un valore alle azioni che stanno ricevendo in questo momento. Certo. Io ho sentito però parlare anche di 400 investitori accreditati, è possibile? Sì, noi del sito chiediamo due tipi di partecipazione. Una è attraverso, diciamo, la partecipazione tramite lavoro. Poi dopo chiediamo anche a una serie di investitori accreditati se sono disponibili, insomma, a donare soldi in cambio di quote. Abbiamo ricevuto un interesse di 400 investitori istituzionali. Detto sì a nessuno, però apriremo presto questa possibilità. Anche per questa sera è tutto, appuntamento a domani.